Pronto, ci senti? Eccoci qua, siamo in diretta per avere notizie da che cosa è successo al Virginia Agnelli, a Felix. Raccontaci un po'. Sì, allora stamattina c'è stata l'udienza per Felix, che è un nostro amico e compagno che si trovava rinchiuso dentro il centro di prima accoglienza appunto a Virginia Agnelli. L'udienza si è tenuta proprio lì dentro, non a Piazzale Clodio come al solito, e praticamente adesso lui è libero, è uscito proprio mezz'oretta fa. E questa è un'ottima notizia. Diciamo, per questo è andata bene, l'hanno liberato, ma le accuse rimangono comunque le stesse. Le spiego un attimo, perché praticamente sabato scorso c'è stato praticamente dei ragazzi che erano in strada nel quartiere Montesacro, sono stati fermati da una volante della polizia che chiedeva di cacciare i documenti per essere identificati. E al primo, diciamo, alle prime domande dei ragazzi sul perché stavano chiedendo i documenti così, subito la polizia ha iniziato a alzare il livello, fino a che non sono iniziate ad arrivare altre violanti. Una decina di ragazzi sono stati intanto bloccati da questi poliziotti che arrivavano, è arrivata anche la finanza con un'altra volante, e diciamo la situazione si è alterata, perché subito loro hanno iniziato a mettere le mani addosso appunto a Felix e altri ragazzi e ragazze che si trovavano lì per strada. E è stato un attimo, diciamo, di confusione in cui la polizia metteva un po' le mani addosso a tutti e cercava di bloccare appunto Felix e un altro ragazzo in particolare, non si sa bene per quale motivo poi li stavano bloccando così con questa violenza. E in un attimo un poliziotto, diciamo spintonando Felix, ha iniziato a urlare: mi vuole rubare la pistola, mi sta rubando la pistola. E praticamente da questa frase è nata un po' l'accusa che l'ha visto implicato in questi giorni e rinchiuso a Virginia Agnelli per 3 giorni da sabato, insomma. E francamente è inverosimile. La cosa è naturalmente una falsità che la polizia ha dovuto in qualche modo mettere in atto, che dato che comunque tutto il quartiere stavano sulla Nomentana trafficata, con tutto il quartiere che iniziava a affacciarsi per cercare di capire cosa stesse succedendo, appunto c'era tutta questa polizia in mezzo alla strada, questi ragazzi che hanno iniziato a urlare: ci stanno portando via, non sappiamo che vogliono, ci stanno mettendo le manette, perché a Felix è stato ammanettato subito dopo questa uscita del poliziotto, ammanettato con violenza, buttato a terra con il ginocchio sulla schiena, insomma un ragazzino di 16 anni che si è vissuto pure questa situazione pesante qua. E intorno la gente iniziava a radunarsi, a chiedere motivo, iniziava a fare fotografie data la violenza delle guardie, e quindi loro hanno cacciato questa scusa per, diciamo, mantenersi in qualche modo un valido motivo per fare quello che stavano facendo, la schifezza che hanno fatto. E adesso, cioè, in seguito poi hanno portato via 7 persone, hanno portate a Fidene, alla questura di Fidene, e poi a Tor Cervara. E le altre 2 persone invece che sono rimaste dentro, un ragazzo è stato portato via a Genova, è rimasto fino a lunedì mattina e ha avuto il processo per direttissima, adesso è libero senza restrizioni, ma il processo comincia il 7 di giugno. Mentre per Felix, per questo ragazzo del processo il 7 giugno l'accusa è di lesioni, di aggressione e lesioni. Cioè lui da solo ha aggredito 7 poliziotti, praticamente, mi sembra di capire. Cosa? Lui, lui ha aggredito 7 poliziotti, quindi, diciamo. Secondo appunto la versione della polizia, un ragazzo ha aggredito 3 poliziotti con 5 giorni di prognosi, insomma questa cosa qua, mentre Felix avrebbe addirittura tentato di rubargli la pistola per fare non si sa cosa in mezzo a tutta la gente davanti a una strada trafficata. Questa è la versione dei guardi. E naturalmente i processi, nonostante adesso anche sia libero, andranno avanti, le accuse sono le stesse. Il PM, ok, Felix, ci sei, sì, che diceva appunto di essere stato strattonato e che proprio i poliziotti avevano portato la sua mano verso la pistola, il PM non gli ha creduto, perché appunto sono 10 testimonianze dei poliziotti contro quella di un ragazzo. e purtroppo è andata così. Per fortuna adesso entrambi sono liberi e insomma la siamo riabbracciati. L'appuntamento che vorremmo dare è proprio per il 7 giugno alle 9 a Piazzale Clodio, per l'udienza dell'altro ragazzo che è accusato di lesioni. Ok, quindi allora ricordiamo ancora il 7 giugno a Piazzale Clodio, altra udienza di un processo, l'ennesimo, che vede accusati dei compagni con accuse, diciamo, quantomeno poco credibili, se non altro. Sì. E vabbè, quindi se non hai nient'altro da aggiungere, ti salutiamo qui. Perfetto. Ok, grazie, ciao mille. Ciao allora. Ci sentiremo per gli aggiornamenti, grazie. Perfetto, grazie mille, ciao ciao.